Maria Sklodowska, Marie Curie, nacque a Varsavia nella seconda metà dell'Ottocento e morì in Francia circa 60 anni dopo. Scienziata geniale e indipendente, ebbe numerosi riconoscimenti accademici dal mondo scientifico, tra cui due Nobel. Maria è l'unica donna ad averne ricevuti due e l'unica persona in assoluto ad averli ricevuti in rami diversi. Si laureò alla Sorbona in fisica e in matematica. Più avanti negli anni le fu assegnata la cattedra di fisica per la prima volta a una donna presso la stessa università. Giocò un ruolo fondamentale non solo come scienziata, ma anche per il suo impegno civile e medico verso i soldati durante la guerra. Morì, secondo la medicina ufficiale, a causa dell'eccessiva esposizione alle radiazioni. Dedicò la sua vita a cercare di liberare l'umanità dall'oppressione provocata da ignoranza e paura. Militò per portare la conoscenza a tutte e tutti coloro che la desideravano, fino agli strati più umili della società. Fu intransigente, inflessibile, soprattutto con se stessa. La sua vita era dedicata alla ricerca e al servizio. Non si concesse mai frivolezze né perdite di tempo. In realtà non era attratta da nient'altro che il suo laboratorio. Non brevettò mai il risultato delle sue ricerche, lo donò liberamente al mondo, mai la sfiorò l'idea di poterne ricavare un tornaconto economico. Marie è stata definita da Einstein non la donna, ma la persona più intelligente del mondo, includendo dunque anche gli uomini. Quando si iscrisse alla Sorbona, le ragazze erano solo 3 ogni 100 matricole e di certo non avevano vita facile. Ma lei sapeva di essere venuta al mondo per dimostrare scientificamente l'esistenza dei mondi invisibili. E dopo la seconda laurea e il matrimonio con Pierre, si immerse completamente nella sua ricerca. L'ambiente maschilista francese la avversava in quanto straniera e donna e usò ogni mezzo per screditarla, anche la sua vita privata, che le costò quasi la perdita del secondo Nobel. Dopo la morte di Pierre, infatti, Marie ebbe una profonda amicizia con il collega Paul Langevin e fu appunto il carteggio privato tra loro ad essere usato per gettare fango su di lei. Marie diede un grosso contributo all'emancipazione femminile. Nell'istituto del radio da lei diretto furono accolte molte giovani ricercatrici, spinte dal fatto che la patrona era una donna. Marie stimolò la creazione in Francia di un ministero della scienza, la cui direzione fu affidata a un'altra donna, sua figlia Irene. I movimenti per l'emancipazione femminile le devono molto e la portano in palmo di mano. Di Marie Curie è possibile ascoltare sul nostro canale anche Vita di Madame Curie, la sua biografia scritta dalla figlia minore Eve. È letta da me. E per chi fosse interessata, la storia di Marie Curie, scritta da me nel mio libro Antenate, la visione delle donne, sul mio canale personale YouTube Devana Vision. Di entrambi lasciamo il link in descrizione. La Scuola delle Donne è lieta di offrire la lettura, fatta da Giorgia, delle lettere di Marie Curie, edite da Lorma Editore. Tuttavia, abbiamo intenzionalmente omesso la lettura della corrispondenza privata tra Marie e Paul Langevin, quella che fu strumentalizzata dalla stampa francese, appunto, per screditare questa grande donna. Siamo infatti convinte, in primo luogo, che siano cose non di interesse pubblico e, in secondo luogo, che la nostra scuola debba sostenere il valore delle donne e non contribuire in nessun modo alla sua diminuzione, in un mondo dove già è abbastanza dura la lotta femminile per sostenere ancora oggi i sabotaggi del patriarcato. Da Devana, buon ascolto.